Certo, certo. Possiamo accomodarci? Cioè possiamo, potete, perché io devo rimanere in piedi. Su questi tacchi voglio, diciamo, sottolineare il fatto che mi sto sacrificando affinché mi possiate vedere al di là di questo palco. Sapete, noi abbiamo due palchi, uno è di questa altezza e l'altro è di un'altezza un po' più alto. Allora c'è sempre la domanda: che palco vuoi? Mi sembra ovvia la risposta. Ah, ma sono grata dei miei 158 centimetri. Bene, benvenuti, un benvenuto caloroso a chi è qui per la prima volta. Siamo onorati di avervi questa sera come ospiti. E io mi presento, sono Noemi, ho 30 e qualcosa anni. E non so perché stiate ridendo, non capisco questa risata. E nei prossimi 20 minuti avrò l'onore di poter leggere insieme a voi la Bibbia, la parola di Dio, perché una cosa deve essere proprio certa e deve essere molto chiara, che tutto quello che noi facciamo qui, tutto quello in cui noi crediamo, lo facciamo e lo crediamo perché c'è scritto. Amen? C'è scritto, ed è questa la nostra fiducia, che niente è inventato, niente è solo temporaneo per questa stagione, ma la parola di Dio è la verità assoluta, che è stata la verità da prima che la storia incominciasse e lo continuerà ad essere fino alla fine dei tempi. Amen? E quindi è per questo che andremo a leggere un passo che ho scelto proprio perché, diciamo, siamo qui per festeggiare, no? Per celebrare. E quindi parleremo di un funerale. Ebbene sì, però vi assicuro che si parla di un funerale con un finale atipico, ok? Non so se ti è mai capitato di andare ad un funerale e di uscirtene con il defunto vivo. A me fino ad ora non è mai successo, però è successo proprio in questa storia che andremo a leggere, ed è una storia che troviamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 11. È una storia che in realtà inizia dai primi versi di questo capitolo e finisce fino alla fine del capitolo, ma noi, siccome mi hanno dato solo 20 minuti e devo rimanere nel tempo, leggeremo un estratto. Va bene? Vi va? Ci siete? Benissimo, voi a casa ci siete? I miei suoceri ci sono? Lo so che ci siete. La storia inizia così. Gesù dunque, arrivato, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Or Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi e molti giudei erano andati da Marta e da Maria per consolarle del loro fratello. Come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. E Marta gli rispose: sì, lo so che risusciterà nella resurrezione, nell'ultimo giorno. Gesù le disse: questa sarà la chiave della nostra riflessione. Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Tu credi questo? E Marta gli disse: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Non è meravigliosa? Quanti hanno già ascoltato più o meno di questa storia? È una delle storie più conosciute della parola. E sapete, questa, prima di essere la storia di un funerale dal finale atipico, è una storia di una richiesta in attesa. Di una richiesta che è rimasta così, che sembra che Gesù abbia sentito, ma che abbia sorvolato su questa richiesta. Sembra essere stata ignorata da Gesù fino a quando ormai non c'era più niente da fare. Vi do un po' di contesto. Marta, Maria e Lazzaro erano i compagni di Gesù. Erano i suoi amici intimi. Si conoscevano molto bene Marta, Maria e Lazzaro. E Gesù mangiavano insieme, hanno mangiato insieme molto spesso. Gesù andava a casa loro molto spesso, passavano del tempo di qualità, si volevano bene, si conoscevano bene. Quindi ad un certo punto Lazzaro si ammala, e si ammala gravemente, e quindi di conseguenza le sorelle Marta e Maria cosa fanno? Vanno a chiamare Gesù. Perché? Perché lo conoscevano, perché sapevano che Gesù avrebbe potuto fare qualcosa, sapevano che Gesù avrebbe potuto fare uno dei suoi miracoli, sapevano che Gesù sarebbe stato in grado di cambiare quella situazione, e quindi lo vanno a chiamare, gli fanno sapere della situazione. Ed è incredibile, bellissimo, è bellissima la base sulla quale si fonda la richiesta d'aiuto delle sorelle. Dicono a Gesù: Lazzaro, colui che tu ami, è malato. Non è interessante? Basano la loro richiesta di aiuto non sull'amore che Lazzaro provava per Gesù, come a dire: Lazzaro, quell'amico che ti voleva tanto bene, che ha passato tanto tempo con te, che ti ha magari fatto dei servizietti qua e là, lui ora ha bisogno di te. O non dicono: noi ora abbiamo bisogno di te, ricordati quante volte ti abbiamo invitato a casa, quante volte hai scroccato il pranzo, quante volte sei rimasto un giorno e due giorni e tre giorni in più. Abbiamo fatto tanto per te, adesso tu devi fare qualcosa per noi. No, non è così. L'appello delle sorelle verso Gesù era basato sull'amore che Gesù aveva per Lazzaro. Colui che tu ami ora è malato. Sapete io che cosa capisco di questo? Capisco che noi possiamo pregare. Noi possiamo chiedere, noi possiamo fondamentalmente avere una relazione con Gesù, con il nostro Creatore, con il nostro Salvatore, non perché ce lo meritiamo, non perché noi abbiamo fatto qualcosa per Lui, non perché noi abbiamo seguito una serie di regole, ma semplicemente perché Lui ci ama. Amen? È per questo che siamo qui e possiamo rivolgergli la parola. Forse oggi qui tu ti senti un pesce fuor d'acqua. Dici: mamma mia, dove sono capitato? Che io a Gesù lo penso solo a Natale. Io a Gesù lo penso forse a Pasqua, forse. Dove sono capitato? Non sono forse nel... Non ho nessun diritto. Non ho proprio la possibilità di rivolgere la parola a Gesù. Bene, questa è una verità per te ed è una verità per me. Io posso parlare con Gesù, io posso chiedere aiuto a Lui, non perché io abbia fatto qualcosa, ma perché Lui ha fatto tutto per me. È per te. Amen? Non è bellissimo? Siete d'accordo? Magari annuite? Benissimo! E quindi capiamo che Gesù amava Lazzaro. E quindi amava Lazzaro, e di conseguenza a questo punto della storia, siccome abbiamo capito che amava Lazzaro, uno si aspetta che Gesù avrebbe lasciato tutto quello che stava facendo e si aspetta che Gesù in questo momento intervenga, è vero? Lasci tutto, che parta, che soccorra. E invece Gesù che cosa fa? Aspetta. E aspetta 2 giorni. Ora, su questo ci sarebbe tanto da dire, però magari in un altro messaggio, va bene? Così venite la prossima volta. Ma aspetta. E quando arriva da Lazzaro, che raggiunge Maria e Marta, e quindi che risponde alla richiesta di aiuto, ormai Lazzaro è nel sepolcro da 4 giorni. Questo significa che Lazzaro a questo punto della storia non era solo morto, di più di morto. Cioè si stava decomponendo a questo punto della storia. Non c'era più niente da fare. Gesù, agli occhi di tutti quelli in quel momento che l'avevano visto arrivare, era in ritardo. Era in un terribile ritardo. Sapete, anche secondo la tradizione, la credenza giudaica di quel tempo, era al 4º giorno che lo spirito della persona lasciava il corpo. E quindi era, secondo questa credenza, era proprio al 4º giorno che ormai il deceduto era deceduto. Non c'era più niente da fare. Gesù era in ritardo. Era troppo tardi. Troppo tardi. Ed ecco che tutta questa delusione, tutta questa rabbia, tutto questo disappunto, lo ascoltiamo, si evince dalle parole di Marta prima e poi dopo 10 versetti anche di Maria. Che cosa hanno detto queste 2 sorelle? Gesù, Gesù, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Però se tu fossi stato qui 4 giorni fa, ora non c'è più niente da fare. E questa frase, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, da un certo punto di vista, io sono stata a pensare, può anche essere, diciamo, considerata una dichiarazione di fede. È vero? Perché Gesù, perché le sorelle stanno dicendo, Gesù, noi non sapevamo che tu potevi fare qualcosa. Tu potevi guarire mio fratello, tu potevi fare in modo che adesso non si trovasse in questo sepolcro da 4 giorni, tu potevi fare qualche cosa, noi ci fidavamo di te, noi ti abbiamo chiesto aiuto, se tu fossi stato qui. E noi, questa delusione, questo sentimento, questa rabbia, la conosciamo. Noi possiamo sentirla così bene perché possiamo empatizzare con questo sentimento. Forse è stata la tua preghiera, Gesù, se tu fossi stato qui per tanto tempo, è vero? La mia lo è stata. O forse lo è ancora. Oh, Gesù, se avessi fatto qualche cosa, io oggi non mi troverei in questa situazione. Se tu avessi fatto qualcosa, io quel lavoro non l'avrei perso. Quella casa avrei potuto ottenerla. Questa situazione difficile non mi starebbe per soffocare. Se tu fossi stato qui, io quella malattia, questa infermità non l'avrei dovuta affrontare, quel matrimonio sarebbe potuto funzionare, quella gravidanza sarebbe potuta andare avanti, se tu fossi stato qui, se tu fossi stato qui, se tu avessi intervenuto, se tu fossi intervenuto, se tu avessi provveduto. Sapete che c'è? In un grande virgolettato, Gesù non era stato lì 2 giorni fa, 2 giorni prima, ma era lì in quel momento. Ed è per questo che tutto stava per succedere, stava per cambiare. È per quello, Gesù era lì in quel momento e quello avrebbe cambiato il finale di quel funerale. Ma la cosa bella è che Gesù non ha condannato Marta e Maria per la loro, diciamo, per il loro momento un po' di rabbia. Gesù non è che si intimorisce, non è che si intimidisce, non è che si schifa, che si allontana dai nostri, se tu fossi stato qui, dal nostro forse accusarlo anche di qualche cosa, ma è in quella delusione, è in quella rabbia, è in quelle domande che Gesù ti incontra. Mi incontra perché? Per darmi una speranza più grande. Gesù dice: Marta, tuo fratello resusciterà. Ci sarà nuova vita. Gesù aveva per Marta, e lo ha per te e per me, un finale, una risposta, ha preparato un piano, una speranza più grande. Sapete, Marta aveva chiesto una guarigione, è vero? Marta aveva chiesto che Lazzaro fosse rianimato. Gesù invece voleva resuscitarlo, non voleva solo guarirlo, non voleva rianimarlo, altri avrebbero anche potuto farlo, ma lui voleva fare l'unica cosa che solo il Figlio di Dio avrebbe potuto fare: dare nuova vita, resuscitare. E la stessa cosa vale per te e per me, vale per te e per me. Lui, Dio, vuole provvedere, vuole rispondere alla tua preghiera, al tuo bisogno, dandoti una speranza più grande. E lo sapete qual è questa speranza più grande? Gesù dice: tuo fratello resusciterà. E Marta dice: sì, va bene, lo so che resusciterà perché ho letto Daniele, ho letto il Vecchio Testamento, lo so, alla fine dei tempi resusciterà. Marta capiva la parola resurrezione come se la resurrezione fosse giustamente un evento, un qualcosa che doveva succedere, un evento futuro, che però in quel momento non avrebbe portato risoluzione, non avrebbe portato gioia al suo cuore. Suo fratello sarebbe rimasto comunque nel sepolcro, parlandoci proprio chiaramente. Per Marta la resurrezione era un evento futuro. Per Gesù la resurrezione era una persona presente. Perché Gesù dice: io non solo voglio resuscitare, sai? Io non solo so resuscitare, io sono la resurrezione e la vita. Io sono colui che può portare soddisfazione, che può portare un senso di essere completo, un senso di essere arrivato, un senso. Io posso fare tutto questo per te, perché io sono la resurrezione. Io sono la vita. E quindi è proprio per questo, perché lui non è solo quello che poteva fare qualcosa, ma lui era il miracolo. È per questo che dice, qualche versetto dopo: togliete la pietra, togliete la pietra. Io sono la resurrezione, io sono la vita, togliete la pietra. E allora Maria dice: no, ma tu non capisci molto bene, adesso puzza, adesso è putrido, adesso è sporco, adesso è troppo male. Io sono la resurrezione, togli la pietra, io posso dare una speranza più grande, io sono la speranza più grande. Tu forse puoi dire: ok, ma Gesù, tu non lo sai, tu non lo sai io che cosa vivo in casa mia c'è l'inferno, tu non lo sai, al lavoro io sono poco fedele, a scuola io ti rinnego ogni due per tre, tu non lo sai, io sono sporco, io sono condannabile, io sono non sono degno. Gesù dice: togli la pietra, io sono la resurrezione, io ti posso dare nuova vita. Gesù, ma per Lazzaro erano passati 4 giorni, per me è una vita che io non ti penso, è una vita che io non ti conosco, è una vita che io ti rinnego, è una vita che io disubbidisco a te, togli la pietra. Gesù dice: io sono la resurrezione e la vita, io posso portare perdono. Io posso portare vero amore eterno, io posso dare nuova linfa, nuova vita a tutte le aree della tua vita e della mia vita che sono morte, dove non c'è più speranza, dove c'è compromesso, dove ormai hai messo tu un punto. Dio oggi vuole dire: togli la pietra, io oggi voglio rendere figli coloro che sono orfani, perché io sono un padre giusto, buono, pronto ad accogliere. Togli quella pietra, io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. La vera vita, fratelli, sorelle, amici, la vera vita è Gesù. Non è la tua carriera, non sono i tuoi soldi, non è la promozione che potevi avere o che hai avuto o che speri di avere, non è il tuo matrimonio, non è nulla che tu possiedi, quella non è la vera vita. Quelle sono cose buone, sono doni che Dio ti ha dato per grazia. Ma una volta che tu morrai e lascerai questa terra, lascerai tutto il resto. Ecco perché Gesù è la vera vita. Chi crede in me non morirà mai. Perché Gesù è venuto qui su questa terra, ha preso la tua disubbidienza, si è preso la colpa della tua disubbidienza, del tuo peccato, della tua autonomia, della tua ribellione, della mia disubbidienza, affinché io potessi avere vita, affinché io potessi avere vita in abbondanza qui su questa terra e la vita eterna dopo, quando morirò. Io non morirò. Questo corpo, questo dolore ai piedi, lo lascerò, ma io non morirò mai, perché credo in Gesù e Lui mi ha dato la vita eterna. Vuol dire che io lascerò questo corpo, smetterò di vivere qui e continuerò a vivere con Lui. Questo vuol dire che Lui è la resurrezione per oggi e anche per il tuo domani. Questa è una grande affermazione che Gesù ha fatto, grande. Ma la domanda che fa dopo a Marta è altrettanto più grande. E dice: tu credi questo? Tu ci credi? E Marta è meravigliosa, perché ancor prima che suo fratello resuscitasse, che Gesù resuscitasse il fratello, lei dice: sì, io ci credo. La sua fede non era basata su quello che Gesù poteva fare per lei o per suo fratello o per chiunque altro. La sua fede era basata su chi era Gesù. Tu credi questo, Marta? Sì, io ci credo, Signore. Ci credo che tu sei il figlio di Dio che doveva venire su questo mondo. Sapete, sapere queste cose è buono, ma non serve a niente. Sapere queste cose è buono, ma non ci darà la vita eterna. E non ci darà neanche una vita abbondante qui. Bisogna crederci, semplicemente. Allora Gesù dice oggi a te e a me: io ti amo, io ti conosco, io mi voglio prendere cura di te. Tu ci credi? Credi questo? Io sono la resurrezione. Nelle zone, nelle aree morte della tua vita, dove c'è delusione, dove c'è compromesso e dove c'è peccato, io voglio portare nuova vita, ho un finale diverso per te. Tu credi questo? Io ci credo. Loro tre ci credono. Ed è per questo che oggi scelgono di battezzarsi in ubbidienza a quello che la parola di Dio insegna, perché hanno creduto che Gesù ha portato nuova vita nei loro cuori, che Gesù è la speranza più grande per loro. Allora io vi voglio lasciare con la stessa domanda che Gesù ha fatto a Marta, perché credo che Gesù la stia facendo ad ognuno di noi, che Gesù sia qui per la prima volta, per la centesima, che sia qui in presenza, che sia qui a casa. Gesù vuole essere il tuo salvatore, vuole perdonarti dei tuoi peccati, vuole darti una nuova vita qui e la vita eterna dopo. Tu ci credi?